Focus Economia. Con Simone Spezia. Sono le 17, 8 minuti e 40 secondi. Buonasera da Simone Spezia, benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. I temi che tratteremo oggi sono la questione della benzina. Come sapete, il governo sta tentando di lavorare anche con le compagnie petrolifere per avere un calo, anche se un calo naturalmente piuttosto limitato, una riduzione, si parla di una riduzione di 4-5 centesimi. Parleremo dell'incontro, dovrebbe iniziare a breve, tra il Presidente del Consiglio Mario Monti e il Vicepresidente della Commissione Europea, ma soprattutto Commissario degli Affari Economici e Monetari Olli Rehn. Ci occuperemo del mercato dell'auto, ma non delle immatricolazioni di nuove auto, ma del mercato dell'usato, che ha subito anche questo un calo a due cifre in una giornata nella quale arrivano segnali negativi ancora una volta anche dal lato dei consumi, almeno secondo le stime di Confcommercio, e anche del consumo di energia elettrica. E ci occuperemo di Grecia. Che cosa succede? Succede che oggi la borsa di Atene è arrivata ai minimi da vent'anni a questa parte, come probabilmente era prevedibile, perché la situazione politica è ancora in piena evoluzione. Al momento è stato incaricato di formare il governo il leader del secondo partito, che è un partito di sinistra, una coalizione delle sinistre, chiamiamola così. Probabilmente non ci riuscirà, già si parla di una nuova data per le elezioni. Tutto questo in una giornata nella quale le borse erano partite negative. Negative intorno al punto percentuale, però dopo il buon andamento di ieri. Ebbene, il peggioramento che stanno avendo in questi ultimi minuti è molto forte. Il FTSE MIB cede il 2,6%, il FTSE All Share il 2,4%, Parigi cede 3 punti percentuali e male fa anche l'America, l'1,4% sul Dow Jones e l'1,77% sul Nasdaq. Mentre Francoforte cede 2 punti percentuali. Naturalmente anche di borse andremo a parlare più avanti. L'euro quota sotto 1,30 contro dollaro, 1,29,86. Quindi tutti questi temi al centro della puntata. Prima di tutto le notizie in breve. Iniziamo dall'oro, in calo a 1636,5 dollari l'oncia, e il petrolio, anche questo aperto in calo a 96,89 dollari al barile, siamo alla quotazione di New York, un meno 1,1%. Si diceva del prezzo della benzina, invece le compagnie petrolifere e i gestori si sono impegnati a procedere da subito ad un ulteriore ribasso dopo quello già registrato all'inizio di questa settimana. Questo è quello che ha assicurato il Ministero dello Sviluppo Economico al termine del tavolo sulla benzina di questa mattina. L'obiettivo è quello di riavvicinare il prezzo medio italiano a quello medio europeo. Il governo si aspetta da oggi stesso, dice Claudio De Vincenti, che è il sottosegretario allo sviluppo economico, il governo si aspetta da oggi stesso una riduzione dei prezzi del carburante di almeno 4-5 centesimi al litro, come si diceva, oltre alla riduzione di 2 centesimi già avvenuta. Si torna tra l'altro su un'ipotesi che era già stata sul piatto negli anni scorsi, come ricorderete, e si sta lavorando all'ipotesi di sterilizzare gli effetti dell'aumento del prezzo sull'IVA. E ancora parla l'amministratore delegato dell'ENI Paolo Scaroni, ENI che tra l'altro oggi ha riunito la sua assemblea. Il calo del prezzo della benzina ci sarà nella misura in cui continueranno a scendere il greggio e i prodotti raffinati e l'euro non si indebolirà. Non possiamo essere solo volontaristici, ha aggiunto Scaroni. Per quanto riguarda i mercati, vi dicevamo, il calo netto in borsa, tra l'altro, sta peggiorando. Milano in questi minuti cede il 2,8% il FTSE MIB in questo momento, mentre scende lo spread tra BTP e Bund, la differenza di rendimento tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi, sceso oggi sotto quota a 380 punti, a 378 punti base. Ha giocato anche il fatto che che il rendimento del decennale italiano è sceso al 5,35%. Per quanto riguarda l'Europa, è arrivato l'annuncio che il 23 maggio ci sarà un vertice straordinario sulla crescita. Si incontreranno i leader dei 27 paesi europei. È un vertice informale, lo ha reso noto il presidente europeo Van Rompuy. Il presidente della Commissione europea Barroso rilancia intanto la strategia dei project bond e ne chiede l'approvazione nel vertice europeo di fine giugno. E avverte: non dobbiamo abbassare la guardia sull'instabilità. Nel frattempo il commissario Olli Rehn chiede alla Grecia che con qualsiasi governo le riforme vengano appoggiate. I bund trentennali tedeschi, altre notizie dai mercati europei, sono ai minimi record, mentre la Grecia colloca titoli di Stato a 6 mesi per 1,3 miliardi di euro con rendimenti in crescita. E ancora cronache e dichiarazioni dall'Europa, con Barroso che dice: negli ultimi 2 anni l'Unione Europea ha fatto più che nei 10 anni precedenti, e ha rivendicato i balzi in avanti fatti per affrontare la crisi e riparare il sistema bancario. Parla anche Angela Merkel, che si rivolge al neopresidente francese François Hollande: bisogna prendere le decisioni necessarie per l'Europa. Tra l'altro i due si vedranno il 16 di maggio. Dice intanto il presidente del Consiglio, Mario Monti, che l'Europa è stanca ed economicamente senza entusiasmo. Per un'Europa che ha raggiunto un grado di perfezione istituzionale e integrazione molto forte, rappresenta un esempio nel mondo, ma al tempo stesso è anziana e demograficamente stanca e non piena di impulsi ed entusiasmo. La Turchia, perché oggi il presidente del Consiglio, Mario Monti, si è incontrato con Erdogan, può essere un esempio importante. Tra l'altro dice Monti che l'Italia sostiene la piena adesione della Turchia all'Unione Europea, determinazione in questa direzione anche appunto da parte del premier turco Erdogan. E ancora cronaca dall'Europa, con la Spagna che annuncerà venerdì la nazionalizzazione di Bankia e della capogruppo BFA, dopo che la società di revisione Deloitte si è rifiutata di certificare i libri contabili del maggior gruppo bancario in termini di attivi. Allo Stato, secondo il Financial Times, costerà fra i 7 e i 10 miliardi di euro. C'è un altro mondo nel frattempo, e questo altro mondo è la Germania. La produzione industriale cresce dell'1,6% in marzo. Un più 2,8% su base mensile e appunto un più 1,6% su base annua. Si attendeva un calo dell'1,2%. Mentre cala il numero delle insolvenze del 4,5% nel febbraio 2012 rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Questa è la Germania, come si diceva, un altro mondo, perché in Italia invece i dati ci dicono di oggi, i dati del CERVED, che non si ferma la corsa ai fallimenti. Nel primo trimestre dell'anno sono state aperte oltre 3.000 procedure, il 4,2% in più rispetto allo stesso periodo del 2011. E la crescita dei default non si arresta da 4 anni, a partire dall'aprile 2008 le procedure sono in aumento. Sempre dall'Italia, a proposito di aziende che chiudono, in realtà questo è uno stabilimento che chiude, la proprietà della Stock ha confermato la propria decisione di chiudere lo stabilimento di Trieste. Lo hanno annunciato le segreterie provinciali dei sindacati di categoria, alle quali la rappresentanza della multinazionale Stock Spirits Group, proprietaria della fabbrica, ha letto la risposta inviata al prefetto di Trieste senza ulteriori argomentazioni. Così si legge. Per quanto riguarda i consumi, ancora dati dall'Italia e purtroppo ancora dati negativi, che dobbiamo fare? I consumi sono calati dell'1,3% rispetto allo stesso mese del 2011, mentre sono aumentati dell'1% rispetto al mese precedente. E poi i dati sull'usato dei quali vi dicevamo. In aprile c'è stato un calo dei passaggi di proprietà netti per le vetture del 18%, per le due ruote del 21% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Poi più avanti approfondiremo e cercheremo di capire anche quanto questo è legato o possa essere legato in qualche modo al di là della crisi, ovviamente, anche l'aumento del prezzo della benzina, chissà. Crolla intanto la domanda di aprile di energia elettrica, meno 6% a livelli dell'aprile 2009, quindi a 3 anni fa. La spending review, la famosa spending review. Oggi sono arrivati i dati definitivi delle email inviate dai cittadini. Allora, sono state 95.000 segnalazioni, in realtà il numero probabilmente va ridotto perché segnala lo stesso governo che un sesto dei messaggi contengono lo stesso testo e questo lascia pensare ad una campagna organizzata. Comunque sono tanti, se fossero 95.000, uno ogni 2 secondi. Sanità, enti locali, auto blu, tetti agli stipendi, risparmio energetico, consulenze, pensioni. I 10 funzionari che ne fanno parte della task force finora hanno esaminato e catalogato il 20% del totale delle segnalazioni e c'è di tutto, dai pasti inutilizzati delle mense che finiscono nella spazzatura, riscaldamento sempre acceso anche d'estate nelle amministrazioni. Poi su questo il governo ha intenzione di elaborare un rapporto. Intanto ci sono le dichiarazioni di Piero Giarda, ministro per i rapporti con il Parlamento, quello con la delega alla spending review. Ossia la revisione di spesa, i tagli di spesa, un progetto da portare a compimento per evitare di aumentare le tasse ancora una volta. Agli amministratori ha detto: vi auguro che possiate riuscire in quello in cui altri non sono riusciti. E poi probabilmente una frase che farà discutere, insomma, dicendo tra l'altro ai dirigenti pubblici che invece di stare in splendidi uffici da 40 metri quadri ci si deve rassegnare a stare in un ufficetto da 15 metri quadri e ne avanza. Notiamo che 15 metri quadri non è esattamente un ufficetto ma è un ufficio normale, perché 40 metri quadri è praticamente un monolocale. Detto ciò, Giarda si rivolge così ai dirigenti pubblici: per evitare i danni devono impegnarsi per evitare i danni ed evitare che figli e nipoti non debbano troppo soffrire per le dissennatezze nostre e vostre del passato. E poi dice agli amministratori dovete fare una purga. Questa è la frase di Giarda, piuttosto forte. Questo il quadro delle notizie, tutto questo mentre i mercati sono ancora negativi, recuperano qualcosa, FTSE MIB in calo del 2,26%, ma veniamo al tema, al primo tema che affrontiamo, ossia la Grecia. Vi ricordo il numero per intervenire in diretta, è il 349-238-6666. Dunque, apriamo la pagina che riguarda la Grecia, dove probabilmente a questo punto si tornerà al voto. Perché? Perché di fatto ieri il Nea Democrazia, che è il primo partito di maggioranza relativa col suo leader Samaras, ha detto che non ce la fa a formare un nuovo governo. Ricordiamo, partito di maggioranza relativa che ha preso il 18,8% dei voti, però 108 seggi. 108 seggi e i socialisti del PASOK ne hanno 41, quindi si va a un totale di 149, la maggioranza è 151 nel Parlamento greco. Quindi niente grande coalizione. Oggi tocca provarci al leader della coalizione delle sinistre greche, Syriza, che ha conquistato 52 seggi. Quindi il secondo partito, Alexis Tsipras, è stato ricevuto dal Presidente della Repubblica e gli ha conferito l'incarico. Saluto Vittorio Darold, inviato del Sole 24 Ore ad Atene, nostra consueta voce quando parliamo delle vicende della Grecia, perché insomma le sta seguendo praticamente fin dall'inizio. Vittorio, buonasera. Calispera, buonasera. Buonasera. Allora, che speranze ci sono per Tsipras? Mi sembra pochine. Sì, molto poche. Tsipras sta cercando di imbarcare nel suo ipotetico nuovo partito, perché la Costituzione prevede che dopo il primo tentativo andato appunto fallito, quello di Samaras, tenti il secondo partito, che in questo caso è questa coalizione della sinistra radicale Syriza, e che ha 3 giorni di tempo teoricamente per fare il nuovo partito, ma ha chiesto a appunto Tsipras, ai 2 maggiori partiti, cioè del vecchio governo, a PASOK, il socialista PASOK, e a Samaras, il neodemocrazia, di disdire le firme alla diciamo così memorandum, quindi all'accordo con l'Unione Europea, che però prevede forti austerità. Questo naturalmente è una proposta irricevibile, perché vorrebbe dire cambiare completamente gli assetti che finora hanno rivisto e hanno diciamo guidato la politica greca. Quindi siamo in una situazione che si va sempre più verso il voto, un voto anticipato a giugno, si parla anche già di una data, il 16 giugno. In qualche modo la Grecia è in una fase simile a quella che l'Italia ha vissuto con la fine del pentapartito, è proprio un crollo di un sistema politico che ha dominato la vita del paese dal 1974, con questa alternanza dei 2 partiti maggiori, il partito conservatore Neodemocrazia e il partito socialista del PASOK, e questo è venuto alla fine, è finito proprio il sistema bipartitico che finora ha guidato il paese. A questo punto sembra sempre più vicino, come dicevamo, il voto, un nuovo voto, e in questo quadro si parla di una destra che cercherebbe di unirsi, quindi la destra di Neodemocrazia, che da sola non è riuscita a sfondare ma ha preso soltanto 108 voti, seggi, di cui naturalmente 50 sono di premio di maggioranza per il primo partito, starebbe cercando di allearsi con quei partitini che gli si erano in qualche modo messi contro, quelli dei greci indipendenti di Kamenos ad esempio, o quello del partito di Laos, che è un piccolo partito di destra che è a corso da solo, o quello della signora Bakoyannis, che ha portato circa sotto del 3%, o quello di Mannos, che è un partito di azione sempre conservatore. Insomma, il movimento, la situazione politica è tutta in rivolgimento, perché ormai si sta preparando il paese a una nuova campagna elettorale. Una nuova campagna elettorale, e a questo punto non si sa che cosa può succedere. Nel frattempo il mercato questa incertezza politica, come sempre fa con l'incertezza politica, in particolare in questa situazione, l'ha punita in maniera pesantissima. Ieri Atene è scesa di oltre il 7%, la borsa di Atene oggi ha lasciato sul terreno un altro 3,5%, praticamente ha perso 10 punti percentuali nel giro di 2 giorni. Oggi ha collocato la Grecia obbligazioni di Stato a 6 mesi per 1,3 miliardi, domande in rallentamento e rendimenti, e quindi conseguentemente rendimenti più alti. Il rendimento medio è salito al 4,69% dal 4,55% dell'asta il 10 aprile scorso, quindi ovviamente c'è molta pressione. Quello che vorrei capire anche da te, Vittorio, che sei là insomma da parecchio e che conosci anche le dinamiche politiche del paese, che cosa può uscire da un'altra tornata elettorale, perché in queste condizioni l'impressione in realtà è che si vada verso un'ulteriore estremizzazione del voto e parcellizzazione del voto, e quindi come dire frammentazione tra piccoli partiti, e non se ne esca sostanzialmente più. Sì, sostanzialmente questo è il timore, proprio di una radicalizzazione del panorama, quindi ci siano sempre più voti verso le estreme. Il tentativo e forse anche il gioco politico di Syriza, di questo partito appunto che improvvisamente di sinistra radicale, che improvvisamente è diventato il secondo partito, superando addirittura il Partito Socialista, è quello proprio di creare un fronte di sinistra alternativo, quindi non un fronte di centro-sinistra, ma un fronte alternativo di sinistra, quindi una svolta completamente degli assetti di questo paese, che da circa dal 1956 non aveva mai dato un incarico a un partito di estrema sinistra, un incarico per formare il governo, quindi è veramente la fine di un'epoca. Le prossime elezioni quindi sono molto a rischio. È possibile che il Presidente della Repubblica cerchi di convincere i partiti ad evitare questo ulteriore voto così ravvicinato, proponendo un governo tecnico di unità nazionale. Si parla anche di questa ipotesi un po' sulla falsariga di quello che, è successo, fatto noi, esatto, in Italia, di quello che è successo in Italia. Insomma, le speranze che arrivano in particolare dalla Germania e dall'Europa, oggi Rehn che dice rispettiamo la democrazia greca ma aspettiamo un governo che dia un appoggio alle riforme, il ministro degli esteri tedesco Guido Westerwelle che rivolge un appello ai partiti in Grecia perché costruiscano un governo della ragione. Ecco, non so a questo punto per come è stato il voto in Grecia, Vittorio, quanto questi appelli alla fine non siano addirittura più dannosi che benefici, no? Per come viene vista l'Europa e per come viene vista la Germania in questo momento dai greci. I greci, quando sentono parlare Schäuble, diventano sempre più arrabbiati. Questo è stato un voto proprio di rabbia e in qualche modo di paura, cioè rabbia nei confronti della vecchia partitocrazia, ma anche nei confronti di una austerity, di una austerity soprattutto sulla tempistica dell'austerity, perché il tentativo di rimettere i conti a posto e in ordine non viene messo in discussione, né il fatto di stare nell'euro, ma la tempistica con cui questa viene chiesta, cioè a giugno, secondo il patto appena firmato, il governo dovrebbe recuperare altri 11 miliardi di euro con nuovi tagli a salari e pensioni, che sono già stati falcidiati del 25%. Quindi la situazione è un po' su questo. E poi la paura degli immigrati, perché molte classi sociali stanno naturalmente perdendo potere d'acquisto e sono sempre più quindi in difficoltà. E quindi il tentativo di un populismo di destra di aiutare queste fasce sociali in difficoltà, e ad esempio questi neonazisti aiutano, questo è un fatto, se vuoi, di colore, ma che ti aiuta a capire un po' la situazione, aiutano gli anziani, le persone più anziane ad andare a ritirare i soldi al bancomat, perché c'è sempre più una microcriminalità che appunto imperversa nella città, e queste pattuglie che aiutano appunto gli anziani a ritirare i soldi al bancomat, anche questo hanno portato voti all'8%, una cifra che è passata, sì, dallo 0,01 all'8%, un partito fino a ieri assolutamente sconosciuto. Certo, grazie Vittorio D'Arolda anche per averci raccontato quest'ultima vicenda, che è interessante, ed anche la misura del, insomma, ci si chiede ma come mai sono riusciti questi qua, che sono chiaramente i neonazisti, questi di Alba Dorata, a ottenere il 7-8%, come vedete ci sono anche vicende di questo genere. Grazie Vittorio D'Arolda, torneremo sicuramente a sentirti nei prossimi giorni e anche nei nostri giornali radio. Noi adesso andiamo in pausa e poi sempre sulla Grecia sentiremo un'intervista che ha realizzato invece il nostro inviato Dario Ricci. A tra poco. Sono le 17:39, di nuovo buonasera da Simone Spezia. Sta parlando intanto il Presidente del Consiglio, Mario Monti, che dice i risultati elettorali spostano di poco l'agenda italiana per l'Europa, anzi ne rendono più agevole la realizzazione. Sta parlando durante una sorta di simposio con il commissario agli affari economici e monetari Olli Rehn, sentiamone un pezzo. Lo sforzo era di sottrarsi alle pressioni che venivano in sede europea e in sede internazionale perché l'Italia si mettesse sotto la tutela o del Fondo Salva Stati o del Fondo Monetario, come è successo per esempio alla Grecia, e che quindi cessasse di essere un rischio di contagio per gli altri paesi, perché sostanzialmente il mondo internazionale avrebbe preso il controllo delle decisioni italiane. abbiamo cercato di evitare questo, consapevoli delle conseguenze che ne sarebbero derivate a lungo termine per il Paese, e abbiamo cercato di fare da noi, naturalmente con l'aiuto morale e le indicazioni economiche degli altri paesi e delle istituzioni europee, ma senza chiedere denaro a nessuno. E quando abbiamo spinto la Commissione, la Banca Centrale Europea, i principali Stati membri ad operare per accrescere i firewalls nella gestione del sistema monetario europeo, non è stato assolutamente perché pensavamo di avere bisogno noi di quei soldi, ma perché la credibilità complessiva del sistema se ne sarebbe giovata, contribuendo così a ridurre anche lo spread per i paesi molto esposti come grande debito, come certamente è l'Italia, cosa che è avvenuta anche se non con la velocità che avremmo sperato. Del Presidente del Consiglio Mario Monti, che sta parlando in diretta da Roma, poi faremo anche un riassunto di quello che ha detto più avanti con il nostro Vincenzo Miglietta, che sta seguendo questo incontro. Eravamo però sul tema della Grecia e dunque, come si diceva, il nostro inviato Dario Ricci ha intervistato il più noto fiscalista greco, Panagiotis Pantelis, che è responsabile guida di Ecofam, che è un centro europeo di analisi economica e fiscale, e con lui ha cercato di fare un punto sulla situazione. Il tasso dell'evasione in Grecia negli ultimi decenni è stato elevatissimo perché non è stato nessun controllo da parte dello Stato come eliminare l'evasione fiscale. Quello che uno deve dire, per vederlo anche con il risultato elettorale, è che se nel 2009 6 su 10 erano evasori fiscali, oggi, 2 anni e 2 anni e mezzo dopo, 7 su 10 sono evasori fiscali, il che significa che l'ultimo governo di 2 anni e mezzo non ha fatto proprio nulla, anzi è stata aumentata l'evasione. Ecco, ma com'è possibile? Perché com'è possibile aumentare l'evasione? L'evasione, questo storicamente lo sanno tutti gli studenti di economia, che dal momento che arrivano i tassi sui 45%, l'unico problema che ha ogni imprenditore è di come evadere, perché ovviamente non riesce a pagare le tasse. Non scordiamo che l'IVA dal 18% nei ultimi anni ha dato al 23% e ovviamente non è possibile a un imprenditore dentro una crisi economica di poter pagare questi tassi che ci sono. È una situazione che sembra simile a quella italiana, aumenta la pressione fiscale e paradossalmente aumenta anche l'evasione. Aumenta l'evasione e ovviamente crollano gli incassi dello Stato, e i risultati degli ultimi anni sono questi. Il problema è che qui si vogliono regole chiare per quanto riguarda il fisco in Grecia, non soltanto in Grecia, anche in Italia, regole chiare nei quali l'altro deve pagare ovviamente le tasse, che non dovranno essere eccessive, e avere dei risultati migliori. All'uscita dall'euro, lei ci crede? È un'ipotesi realistica? Si potrebbe davvero tornare alla dracma? La mia opinione è che l'uscita dall'euro non è possibile. Non è possibile perché penso che il costo che avrà la comunità europea è molto maggiore rispetto ai 130 miliardi di prestito in Grecia. Non allora questo era una cosa stata da alcuni partiti tanto per costringere la gente di votarli. Penso siamo dentro un'Europa, penso che tutti i paesi, tutti i popoli possono cambiare questa Europa, e allora non è possibile di lasciarsi la Grecia da sola o la Spagna da sola o il Portogallo o l'Italia. Sono paesi che devono essere alleati, sono paesi che possono cambiare complessivamente l'Europa, specialmente a favore della produzione e a favore dei popoli che abitano, e non a favore dei mercati e delle banche. E con questo esauriamo almeno per oggi naturalmente l'argomento Grecia. Sono le 17:44 minuti e 36 secondi. Sentiamo come vanno le cose su strade e autostrade, e poi naturalmente andremo alla borsa, perché la giornata si chiude male, un calo del 2,37%. Avremo il consueto collegamento con i colleghi di Radio Core Il Sole 24 Ore, ma sentiremo anche Mario Spreafico, direttore di investimenti di Schroders Italia, perché, come dire, si è andati a precipizio nell'ultima fase di seduta. Viabilità. Ci scrivete, c'era bisogno di intervistare un fiscalista greco, andava bene anche un camionista italiano. In effetti, devo dire, i parallelismi tra quello che ci diceva poco fa il fiscalista greco e quello che accade in Italia, come dire, erano abbastanza forti, insomma. Allora, come si diceva, i mercati giù del 2,37% Milano sul FTSE MIB, del 2,15% sul FTSE O'Share, Parigi giù del 2,78%, Francoforte dell'1,90%, Londra dell'1,72%, giù anche New York, meno 1,23% sul Dow Jones, meno 1,5% sul Nasdaq. Mario Spreafico, direttore investimenti di Schroders Italia, che abbiamo chiamato al volo, ringraziamo per averci raggiunto, per aver accettato, per avere in breve un commento da lei. Buonasera naturalmente. Buonasera. Su questo crollo nel pomeriggio, perché insomma le cose erano andate maluccio un po' tutto il giorno, qualcosa che in fondo ci si poteva aspettare dopo i rialzi di ieri, fatta salva Atene che ha lasciato sul terreno il 7%, è tutta colpa della Grecia? Ma non solo, direi che già è un mercato che vive nell'incertezza, direi che in questo momento c'è una grossa attesa che sappiamo che non avrà risposte immediate per quanto riguarda la nuova azione del nuovo governo francese, quindi quale sarà la forza di antagonismo a questo atteggiamento rigido dei tedeschi. Quindi c'è una grossa attesa di cambiamento in quella che è la direzione politica dell'Europa, ma soprattutto nell'antagonismo alla Germania. Nel pomeriggio c'è stato poi un susseguirsi di eventi riguardanti anche la situazione di stallo greca, con le dichiarazioni dell'esponente incaricato per formare il nuovo governo, quindi l'esponente dell'estrema sinistra, che ha detto di voler rinegoziare i patti riguardanti l'austerity greca nei confronti dell'Unione Europea. Certamente questa è un'ulteriore, ha avuto una reazione. Abbiamo detto spesso che, no, che i mercati fanno fatica a capire come dire, una politica un po' levantina come la nostra, e probabilmente succede lo stesso per la Grecia, insomma, perché questo è un premier incaricato, ma probabilmente non andrà mai a guidare un governo. Assolutamente sì, però è un po' un falso problema. Quello della Grecia in questo momento è un alibi. Tutti sappiamo che il peso in questo momento numerico, ma anche dopo quello che è avvenuto nella ristrutturazione del debito, è abbastanza ormai un caso quasi chiuso per i mercati. Quello che è importante è in questo momento l'atteggiamento che la Grecia può avere politicamente nei confronti del resto dell'Unione Europea, perché si tratta eventualmente di dover screditare un lavoro fallimentare che è stato fatto dalla politica europea nel corso degli ultimi 2 anni, e questo riparte un po' quello che è il meccanismo di sfiducia da parte dei mercati verso una governance europea, e questo è uno dei motivi che alimenta in questo momento l'incertezza sui mercati, ma nello stesso tempo anche la speranza che la nuova compagine, quindi il crollo di questo binomio Merkozy che ormai è sparito, possa eventualmente dare un vigore ulteriore a una nuova politica europea e mettere un po' la Germania alle spalle al muro, in quanto in questo momento è ovvio che è l'unico paese che sta guadagnando da questa crisi nei confronti degli altri paesi. Grazie a Mario Spreafico, direttore investimenti di Schroders Italia, per essere stato con noi e buonasera. Nel frattempo l'euro si rafforza lievemente a 1,30,10 in questo momento, con Paolo Paronetto di Radio Core Il Sole 24 Ore. Saluto anche te Paolo, buonasera. Buonasera a tutti. Dunque con te direi che andiamo a questo punto sui singoli titoli. Visto che abbiamo dato una sequela impressionante di pessime notizie, inizierei da quelli positivi. Telecom Italia su di 1%, una giornata molto negativa appunto. Sì, esattamente. Telecom Italia ha beneficiato di 2 fattori. Da una parte una questione settoriale, tutto il settore TLC europeo è andato bene oggi, è l'unico sottoindice a livello continentale positivo, ha guadagnato lo 0,9%, il motivo è la mossa del colosso messicano American Movil, che è salito nel capitale dell'olandese KPN dal 4,8% al 28%, questo ha messo in fermento tutti i titoli del comparto e quindi ne ha beneficiato anche Telecom Italia. Inoltre Telecom è alla vigilia di un consiglio di amministrazione che approverà i conti trimestrali e inoltre analizzerà le opzioni strategiche che riguardano la partecipazione di controllo in Telecom Italia Media. Si parla di una possibile di un possibile scorpo di La7 della società e del possibile raggiungimento di accordi per joint venture nel settore appunto della televisione, quindi il mercato attende queste novità e oggi ha premiato il titolo. Un punto percentuale di guadagno per Buzzi Unicem. Tra le banche l'unica positiva, in realtà ci sono solo tre titoli positivi sul FTSE MIB, a dire il vero, appunto Telecom Italia, Buzzi Unicem e poi la Popolare di Milano che guadagna mezzo punto percentuale, Paolo. Certo, la Popolare di Milano lunedì darà la trimestrale, ma qui continua a essere l'effetto della nuova governance del nuovo consigliere delegato Piero Montani. Diciamo che BPM ha sofferto molto anche rispetto alle altre banche negli ultimi mesi, proprio a causa della rigidità della governance che è stata spesso messa all'indice dal mercato. Adesso si attende entro l'estate il nuovo piano industriale proprio del nuovo consigliere delegato, che ha già fatto capire che sarà un piano duro e che ci saranno azioni incisive sul fronte dei costi, che da sempre sono un po' il tallone d'Achille della banca, e quindi molti investitori si stanno riposizionando e anche oggi hanno sostenuto il titolo. Allora, per A2A, venendo ai titoli negativi, meno 6,87%, qua se non sbaglio sono realizzi dopo la chiusura della partita di Edison, naturalmente ieri aveva messo segno un rialzo fortissimo, intorno al 9%. Finmeccanica giù del 6%, ci sono motivi particolari? Ma diciamo che anche qui sono realizzi, come diceva il dottor Sprafico prima, la borsa vive molto di incertezza e quindi in questa fase, quando c'è un rialzo, diciamo che in molti investitori si sbrigano, si affrettano a passare a realizzi immediatamente dopo. Ieri Finmeccanica aveva guadagnato l'1,9% e oggi sono tornate le indiscrezioni sulla possibile vendita di Ansaldo Energia, ma diciamo che finché non ci saranno annunci concreti proprio sul piano di dismissioni da 1 miliardo che la società ha annunciato entro l'anno, gli investitori rimangono prudenti e quindi, come abbiamo visto anche oggi, immediatamente dopo il rialzo sono passati alle vendite. Il titolo ha perso il 5,97%. Allora, giù anche Saipem, un calo del 5,4%, qua cos'è, il petrolio? Sì, qua è il petrolio che oggi sta perdendo oltre il 2%, il quinto seduta di ribasso consecutiva, e quindi diciamo che anche tutto il settore energia, anche a livello europeo, ne ha risentito, è stato uno dei peggiori, ha perso il 2,5% e Saipem appunto tra i peggiori, in calo del 5,4%. Sì, siamo a $95,6 al barile ormai a New York. ST Microelectronics giù del 5,3%, l'ottomatica del 4,5%, qua in questi casi, insomma, ormai lo sapete, in queste situazioni di incertezza le banche vanno tutte giù, Banco Popolare giù del 4,3%, il Monte dei Paschi del 4,2%, Intesa San Paolo del 3,5%, Luxottica perde 4 punti percentuali. E qui ieri ha annunciato i risultati al mercato chiuso, risultati molto buoni che inoltre sono stati commentati dall'amministratore delegato come un buon inizio, un buon punto di partenza per il 2012. Il titolo, proprio in vista della pubblicazione dei risultati, aveva guadagnato quasi il 10% in 9 sedute, quindi anche in questo caso diciamo che si tratta della classica vendita sulla notizia. Il titolo è cresciuto in attesa della notizia e quando la notizia è arrivata gli investitori sono passati a realizzi e hanno venduto le azioni. E grazie anche a Paolo Paronetto di Radio Corriere del Sole 24 Ore per essere stato con noi. Paolo, buonasera. Allora, vi diamo un quadro anche su gli altri titoli. Fiat giù del 4,1%, di Luxottica si è detto, quasi 4 punti percentuali di calo tanto per Prismian quanto per Pirelli quanto per Generali, che lascia sul terreno il 3,8%. Ansaldo giù del 3,6%, del 3,5% Intesa San Paolo ed Exor, del 3,3% Parmalat e Impregilo, del 3,2% Fiat Industrial, UBI Banca di 3 punti percentuali, quasi del 3, del 2,8%, Tenaris e Tots, la Popolare di Milano del 2,78, del 2,6% scende di Asori, Mediaset del 2,5% e Terna del 2,4%, giù del 2,35% Mediolanum e del 2,1% Unicredit. Campari scende dell'1,87%, Mediobanca di 1,5%, così come Enel, Enel Green Power dell'1,4%, Salvatore Ferragamo altrettanto dell'1,3%, Atlantia, Snam dell'1,19%, Autogrill dell'1,17%, Azimut dello 0,82%, Eni dello 0,60%. Tra l'altro oggi c'è stata l'assemblea di Eni, Scaroni ha detto tra l'altro che Snam non preoccupa perché non ho ragione di essere preoccupato, il governo ha stesso interesse che abbiamo noi a guadagnarsi la credibilità sui mercati. E poi acquisire Saras? No grazie. Ci ritroviamo tra poco, parleremo di benzina. Le 18:09 minuti e 42 secondi. Di nuovo buonasera da Simone Spezia e benvenuti alla seconda parte di Focus Economia. Come avete sentito, ha parlato il Presidente del Consiglio Mario Monti, praticamente di tutti i temi sul piatto, dal punto di vista economico e non solo. Affronteremo il tema più avanti, dopo la viabilità. Prima di tutto parliamo di benzina. Stamattina c'è stato a Roma l'incontro tra governo e rappresentanti di tutta la filiera dei carburanti. Come vi abbiamo raccontato anche ieri, c'è uno studio di Nomisma Energia in base al quale le quotazioni attuali, con le quotazioni attuali del greggio, la benzina dovrebbe costare 8 centesimi in meno rispetto ai prezzi attuali, 1,77 euro al litro contro 1,85. La differenza tra il prezzo ottimale della verde e quello effettivamente praticato è sui livelli più alti di sempre, garantisce alle compagnie extra profitti mensili per 50/100 milioni di euro in questa forchetta. Scendono i consumi nel frattempo, secondo l'Unione Petrolifera la domanda di quest'anno si fermerà a 8,8 milioni di tonnellate contro le 9,4 del 2011. E poi c'è il calcolo che facciamo sempre, quello mettendo in relazione il fatto che il petrolio si paga in dollari e noi abbiamo gli euro. Dunque, il petrolio ha lo stesso costo in euro di 4 anni fa, ma la benzina si paga 33 centesimi in più al litro. Il peso della componente fiscale nel frattempo è aumentato di circa 21 centesimi, quindi fatevi i conti. Ci sono una dozzina di centesimi di troppo almeno. Il prezzo è il più alto d'Europa, siamo anche quelli con la tassazione più elevata, IVA e accise incidono per il 59%. Oggi al Ministero c'è stato un impegno delle compagnie a ridurre subito i prezzi, si sono impegnate a procedere subito ad un ulteriore ribasso di 4-5 centesimi e si sta lavorando sulla sterilizzazione degli effetti dell'aumento del prezzo sull'IVA, la sterilizzazione dell'IVA. Anna Marino ha intervistato il presidente dell'Unione Petrolifera, Pasquale De Vita. Negli ultimi 4-5 giorni ci sono stati 4 ribassi, anzi il quinto è di oggi, e che quindi sono diminuiti di 5-6 centesimi la benzina, il gasolio è in discesa da parecchio tempo, quindi è emerso comunque un problema che è sempre il solito, ossia che la rete italiana strutturalmente è una rete molto pesante, ha 24.000 impianti, in Francia ce ne sono 14.000, in Inghilterra 9.000, e quindi questo comporta due cose, un fatto negativo perché c'è questa differenza di 3-4 centesimi di confronto dell'Europa. Questo differenziale con l'Europa come si può ridurre? Nella sostanza lo devono ridurre i consumatori, perché in Italia ci sono migliaia di impianti che fanno prezzi che sono competitivi rispetto all'Europa. In Italia si sta allargando un po', ma siamo ancora a meno della metà, mentre il resto d'Europa al 100% è self-service. Per quanto riguarda il calo del consumo della benzina, è dovuto alle accise in aumento oppure è un calo per, diciamo, i prezzi? Purtroppo è il risultato di una situazione generale dove tutti stanno molto più attenti a spendere. Non avete deciso ribassi? È stato un invito del governo a essere sul mercato con i prezzi più bassi possibili. Le aziende hanno dato ovviamente la loro conferma che andranno su questa linea, ma ripeto, ci stanno già, perché negli ultimi 4-5 giorni ci sono stati 4-5 ribassi. Ci sono anche delle tasse che pesano sul carburante, in questo caso secondo voi hanno fatto la differenza sul consumo, sulla diminuzione dei consumi? Tutto quello che è aumento di prezzo incide naturalmente sull'andamento dei consumi. In questo periodo le aziende stanno assolutamente sott'acqua dal punto di vista economico, quindi hanno dei bilanci in fortissima perdita, hanno oggi, continuano a perdere in questi giorni, perché i costi comunque sono cresciuti, le vendite sono diminuite di molto e quindi è chiaro che i conti economici non tornano, quindi le aziende stanno in grande sofferenza. Quindi non si può parlare di margini delle aziende grazie all'aumento dei prezzi del petrolio e della benzina? No, perché l'aumento del prezzo del carburante finale è dovuto ai due elementi di base, l'aumento del prezzo della materia prima e l'aumento delle tasse. Se aumentano questi due, non è che le società abbiano dei vantaggi, anzi, col fatto che aumenta il prezzo hanno lo svantaggio che si vende di meno. Quando si parla del prezzo della benzina, si arriva sempre alla conclusione che siccome sale il prezzo della benzina, aumenta tutto il resto, perché si trasporta, perché ci stanno i camion che viaggiano, eccetera. Ecco, attenzione, e questo noi lo diciamo anche ai consumatori, l'aumento del prezzo della benzina incide sul chilo trasportato in termini di millesimi o al massimo di centesimi, quindi non è giustificato chi alza i pomodori di 30 centesimi perché è aumentata la benzina quando il costo dei trasporti è aumentato di 2. Così Pasquale Di Vita, presidente dell'Unione Petrolifera. Adesso è il momento della viabilità e poi parliamo di mercato dell'auto, ma di quello dell'usato. Le 18:17 minuti e 45 secondi, i vostri messaggi al 349-238-6666, ci dite con ironia: nessuno ha notato la raffica di ribassi del gasolio, riferendovi alle parole di Pasquale Di Vita, presidente dell'Unione Petrolifera. Ci dite forse un centesimo, e ancora facendo sull'ultimo discorso, quello su chi aumenta i prezzi dei beni trasportati a causa dell'aumento della benzina, insomma De Vita diceva: ci sono aumenti non giustificati, e ci fate notare che il prezzo della benzina è un costo. Spiace che, insomma, fosse un'intervista registrata e quindi queste domande non gliele possiamo girare. Rimaniamo in qualche misura in tema per parlare di mercato dell'auto, ma questa volta non parliamo del mercato dell'auto inteso come immatricolazioni, come mercato del nuovo. Oggi sono arrivati dei dati molto negativi anche sull'usato. Associamo il tutto anche ad un altro dato arrivato oggi, quello della Confcommercio. In marzo un calo dell'1,3% dei consumi rispetto allo stesso mese del 2011, mentre invece su un mese c'è una crescita dell'1%, ma come si diceva è di mercato dell'usato che vogliamo parlare. Ci sono i dati dell'ACI. Ad aprile il mercato dell'usato prosegue il trend negativo sia per le quattro che per le due ruote. I passaggi di proprietà netti per le vetture sono diminuiti del 18%, quelli per le due ruote sono scesi del 21% sullo stesso mese del 2011. dati paralleli praticamente a quelli delle immatricolazioni, meno 18% su aprile 2011, a marzo era stato un meno 26,5%. Gianprimo Quagliano, direttore del centro studi Promotor, buonasera. Buonasera. Allora, è una cosa normale il fatto che quando cala in maniera così consistente il nuovo cali in maniera altrettanto consistente l'usato oppure no? No, non è normale. Infatti quando il mercato del nuovo accusa difficoltà, il mercato dell'usato in genere tiene o guadagna terreno, perché c'è una quota di persone che non possono acquistare un'auto nuova e si rivolgono al mercato dell'usato. Questo perché quando c'è una situazione economica difficile, ma quando la situazione economica diventa veramente molto difficile come quella attuale, la gente è dissuasa anche dall'acquistare autovetture usate. Quindi questo dato molto negativo del mercato dell'usato, che riguarda il 2012, perché nel 2011 sostanzialmente il mercato dell'usato era sostanzialmente sui livelli dell'anno precedente, è un forte campanello di allarme. Ci sono, oltre alla crisi economica, però anche delle altre cause specifiche legate anche alla crisi economica. Ad esempio, un aspetto che penalizza anche il mercato dell'usato come quello del nuovo è la difficoltà di ricorrere al credito al consumo, perché anche per l'usato si fa ricorso in maniera consistente al credito al consumo. E poi l'aumento dell'imposta provinciale di trascrizione che vi è stata nella seconda metà dell'anno scorso colpisce anche le auto usate, e quindi l'effetto che si è prodotto è quindi quello anche di un calo molto forte del mercato dell'usato. Quindi sull'usato, naturalmente, essendo in genere una questione di scambio, no? se ne butta una via vecchia per prenderne un'altra, l'impatto del prezzo della benzina non conta più di tanto, mi sembra di capire. Beh, non conta più di tanto, però è un elemento che insieme al caro assicurazione comunque non induce ad acquistare un'autovettura, quindi molto spesso all'usato si rivolgono anche i giovani che per la prima volta accedono all'autovettura, e in questa situazione per i giovani questo accesso è molto più difficile, quindi una componente importante del mercato dell'usato entra in difficoltà. Quindi anche il caro carburanti, caro assicurazione, i forti rincari fiscali incidono pesantemente anche sul rato. In sostanza lei ci sta dicendo che questo calo così pesante dell'usato, lo ricordiamo, meno 18% per quanto riguarda aprile, per quanto riguarda le auto, meno 21% per le moto, è la spia fondamentalmente, e ci serve da segnale per due cose, per capire quanto sia profonda questa recessione da un lato e dall'altro lato quanto resti difficile l'accesso al credito, non solamente per le imprese, non solamente per il mutuo, ma anche per cose di questo genere. Perfetto, aggiungerei una cosa, ed è una spia anche di quanto la mano pesante del fisco sull'automobile abbia inciso, perché questi rincari dell'imposta provinciale di trascrizione sulle vetture usate non era proprio il caso di farlo. Benissimo, io la ringrazio, grazie a Gianprimo Quagliano, direttore del centro studi Promotor, per essere stato con noi e per averci aiutato anche a capire questi dati, e buonasera. Grazie a voi, buonasera. Noi adesso cambiamo argomento e andiamo a chiudere qualcosa, ve l'abbiamo già accennato nel giornale radio, in parte vi abbiamo fatto sentire qualcosa nella prima parte di Focus Economia, dunque parliamo di quel che ha detto oggi il Presidente del Consiglio, Mario Monti. Ancora in corso un incontro, una sorta di simposio, una sorta di tavola rotonda nella quale ci sono il Presidente del Consiglio, Mario Monti, il Commissario degli Affari Economici e Monetari dell'Unione Europea, Olli Rehn, sta parlando in questi minuti Franco Bassanini. Saluto il nostro Vincenzo Miglietta che sta seguendo tutto questo. Vincenzo, buonasera. Buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori. Allora, inizierei naturalmente chiedendoti di riassumerci un po' quello che ha detto Monti e poi passeremo a Rehn perché ha parlato anche lui. Sì, il Presidente del Consiglio ha iniziato a parlare facendo un riferimento necessariamente al voto delle amministrative i cui risultati sono noti a tutti, e per assurdo il ragionamento di Monti è quello che i risultati elettorali spostano di poco l'agenda italiana per l'Europa, anzi, ha detto Monti, ne rendono più agevole la realizzazione. Questa è la sua analisi delle amministrative, quindi il tema della crescita, tutto il suo intervento è incentrato su questo argomento. Di fondo resta la necessità che venga perseguito il rigore nei conti, questo lo ha chiarito Monti, per questo ha ribadito di essere molto vicino anche al modo di intendere l'economia della Germania, ma ha detto non possiamo più studiare come si cresce, dobbiamo intervenire sulle misure proprio per tornare a dare una spinta alla crescita, quindi al prodotto interno lordo non solo dell'Italia ma dell'Europa. Poi Monti ha fatto una riflessione su quanto sulle conseguenze della crisi. Ricordiamo il drammatico fenomeno dei suicidi di tanti imprenditori in Italia, le conseguenze umane della crisi, ha detto Monti, dovrebbero far riflettere chi ha portato l'economia in questo stato e non chi da quello stato sta cercando di farla uscire. Sì, una sorta, Vincenzo, di risposta a chi accusa lo stesso Monti di essere causa di questi suicidi, insomma l'abbiamo sentito in questi ultimi giorni. Tra l'altro c'è una richiesta da parte di Monti che chiede all'Europa di rivedere le regole contabili comunitarie sui debiti della pubblica amministrazione verso le imprese. Brevissimamente, Vincenzo, qualcosa di importante detto dal commissario agli affari economici Rehn? Sì, di fatto Rehn non è la prima volta che viene in Italia. Rehn ha puntato il dito per quanto riguarda il nostro paese soprattutto sui ritardi per quanto riguarda le riforme strutturali, tra tutte quella sul lavoro, un ritardo nella riforma del mercato del lavoro, ha detto, può danneggiare l'Italia nell'attuale fase di tensione dei mercati, per cui dare l'invito a chiudere in tempi brevi la partita della riforma del lavoro che sappiamo essere in Parlamento. Grazie, grazie anche al nostro Vincenzo Miglietta per questi aggiornamenti in chiusura. Insomma, tanto abbiamo parlato di Europa, tanto abbiamo parlato di Italia. Vi ricordiamo che domani sul Sole 24 Ore c'è un grande test con la bussola del risparmiatore, i tuoi soldi nel nuovo scenario europeo, azioni, bond, valute, materie prime e beni rifugio. Un ringraziamento a Barbara Bianchi e Mauro Del Corno in redazione, a Fabio Cantadori in regia. Grazie a tutti voi per l'ascolto. Da Simone Spezia, Focus Economia torna domani dopo il GR delle 17. Radio 24, la passione si sente.